notte verrà tremante la spezza. Festeggiar le nozze illustri, già nel castello i nobili parenti, unser di mia famiglia, in breve Arturo cui volse, e sella pertinace, osasse d'opporsi, non temer. Bella stanza, il simulato foglio portimi, vedesi sull'aria che tragge alla città regina di Scozia, e cui tra applause liete grida conduce Arturo. Sarai più lieta in questo dì vederti, in questo dì che di me ne ho levati, accendono per te. Valiano il mio petto spagnolo. Thank you. Thank you. Oh! Thank you. queste porte qui guida la mia forza, il mio ritmo adorato. Lucia, la sua bella maggiura, quest'amor culetta mia, e le donne altri no! Da te fuggire